Ad alta voce, Paolo Piero Bon legge Le avventure di Gordon Pym di Edgar Allan Poe. Traduzione di Elio Vittorini. 10 luglio. Avvistato un brigantino che si dichiarò proveniente da Rio e diretto a Norfolk. Tempo nebbioso con sbuffi di lieve brezza da est. Nella giornata morì Hartman Rogers, che fin dal giorno 8, dopo aver bevuto un grog, pativa di convulsioni. Egli parteggiava per il cuoco ed era uno su cui Peters faceva molto assegnamento. Peters non nascose ad Augustus di sospettare che il secondo lo avesse avvelenato e di ritenere prossimo il proprio turno se non stava sul chi va là. Adesso, della sua fazione, non c'erano più che lui, il cuoco e Jones, mentre dall'altra parte si trovavano in 7. Egli aveva parlato a Jones della sua idea di togliere al secondo il comando della nave, ma visto che quello accoglieva la cosa con freddezza, si era ben guardato dall'insistere come di farne parola anche al cuoco, e dovette infatti rallegrarsi della propria prudenza, poiché nel pomeriggio il cuoco parve determinato a passare dalla parte del secondo, il che avvenne esplicitamente poco dopo, mentre Jones non mancò di cercare l'occasione per litigare con lui e fargli capire che avrebbe informato il secondo dell'accennato piano. Evidentemente non c'era più tempo da perdere e Peters si disse risoluto a tentare di impadronirsi della nave a patto che Augustus gli avesse prestato mano. Il mio amico lo assicurò allora del suo desiderio di aderire a qualsiasi piano inteso a tal fine e, ritenendolo cosa opportuna, gli rivelò la mia presenza a bordo. Di questo il meticcio si dimostrò non meno entusiasmato che sorpreso, in quanto ormai non poteva più contare su Jones, che giudicava la stregua d'un partigiano del secondo. Subito vennero insieme da basso e, Augustus chiamatomi per nome, Peters ed io si fece in breve conoscenza. Fu così convenuto che avremmo cercato di riconquistare la nave alla prima buona occasione, lasciando Jones completamente fuori dai nostri piani. In caso di successo, avremmo condotto il brigantino nel porto che si sarebbe presentato più prossimo per rimetterlo nelle mani dell'autorità. La defezione dei suoi partigiani aveva obbligato Peters a rinunciare all'idea della crociera nel Pacifico, che non si poteva certo compiere senza equipaggio, ed egli, giurandoci solennemente di essere stato trascinato nella rivolta per un accesso di follia, diceva ora di contare, a causa di tale demenza, su una soluzione o comunque su una grazia che io ed Augustus, senza dubbio, saremmo riusciti con le nostre deposizioni a procurargli. Mentre decidevamo in tal senso, il grido «Tutti alle vele!» ci interruppe ed Augustus e Peters accorsero sopra coperta. Come al solito, quasi tutti gli uomini dell'equipaggio erano ubriachi e prima che le vele fossero state serrate perfettamente, una violenta raffica aveva gettato il brigantino su un fianco. Ad ogni modo la nave riuscì in breve a riprendere l'equilibrio, ma non senza aver imbarcato una buona dose d'acqua. Si era poi appena finito di rimetterla in ordine che una seconda raffica sopravvenne, subito seguita da una terza, che non produssero però nessun danno. Un fortunale, a quanto pareva, ci veniva addosso. Difatti non si fece attendere e il vento si mise a soffiare con rabbia da nord e da ovest insieme. Si serrò tutto più che fu possibile e si tirò avanti con la mezzana a metà ammainata. All'imbrunire il vento rinfrescò ancora e il mare divenne considerevolmente grosso. Allora Peters ed Augustus tornarono di sotto e il nostro conciliabolo fu ripreso. Convenimmo che non potevamo aspettarci occasione più favorevole di quella in cui eravamo per condurre ad effetto il nostro disegno, inatteso qual doveva riuscire ad ognuno in un simile momento un tentativo del genere. Siccome il brigantino si trovava perfettamente in panna, nessuna manovra si rendeva necessaria sino al ritorno del bel tempo, e se noi fossimo riusciti nell'impresa avremmo poi potuto liberare uno e magari due degli uomini onde ci aiutassero a condurre la nave in porto. la principale difficoltà consisteva nella grande inferiorità delle nostre forze. Noi eravamo solo 3, mentre nel quadrato erano in 9. Inoltre, tutte le armi di bordo si trovavano nelle loro mani, ad eccezione di un paio di piccole pistole che Peters si era nascosto indosso e di un coltellaccio da marinaio che gli portava sempre alla cintura. Da certi indizi, poi, quale per esempio il fatto che non si rivedeva mai al suo posto cosa alcuna che somigliasse a un'ascia o una manopola, c'era da temere che il secondo nutrisse dei sospetti e che, almeno al riguardo di Peters, non aspettasse che un'occasione per sbarazzarsi di lui. Evidentemente, quello che avevamo intenzione di fare non potevamo farlo troppo presto, né, data la nostra inferiorità numerica, potevamo procedere senza la più grande circospezione. Peters propose quanto segue: che anzitutto andasse lui sul ponte e quivi intavolasse una conversazione con l'uomo di quarto che era Allen, per cogliere il momento opportuno di buttarlo in mare senza difficoltà e senza rumore. Che io e Augustus quindi montassimo a nostra volta e cercassimo di armarci in un qualunque modo. E infine che tutti e 3 corressimo a impadronirci della scala d'accesso al quadrato prima che la minima opposizione ci venisse fatta da quella parte. Io contraddissi a tal disegno, poiché non mi pareva che il secondo, uomo molto astuto fuori dai suoi superstiziosi pregiudizi, potesse lasciarsi sorprendere con tanta facilità. La semplice presenza di un uomo di quarto sul ponte dimostrava che il secondo stava sul chi va là. Non essendo cosa abituale, tranne sulle navi a bordo delle quali la disciplina è rigorosamente osservata, mettere un uomo di quarto sul ponte mentre si è in panna per via di una tempesta. Siccome io scrivo soprattutto, se non proprio esclusivamente, per le persone che non hanno mai navigato, sarà bene spieghi qui l'esatta condizione di una nave in simili circostanze. Le navi, secondo la loro struttura particolare, hanno da scegliere fra diverse maniere di mettersi in panna durante una tempesta. Il Grampus era di quelle navi che si mettono di solito in panna con una vela di trinchetto a 2/3 roli. Si mette in panna appoggiando al vento in maniera che la vela, se attraversa la nave in diagonale, si gonfi tutta. La prua, allora, viene a volgere su una direzione solo di qualche grado sotto al punto da cui soffia e naturalmente riceve l'urto del mare da sopravvento. In questa posizione una nave solida può resistere a qualsiasi violenza di tempesta senza imbarcare una goccia d'acqua, né più occorre che gli uomini si diano altro da fare. E uso anche legare il timone, ma la cosa, poiché il timone non può avere nessuna influenza su una nave in panna, risulta inutile e la si fa soltanto per ovviare allo strepito prodotto dalla sbarra in libertà. Però è consigliabile lasciarla libera se non si vuol correre il rischio di farsi portare via il timone, in quanto resta privo del suo gioco necessario, dal mare. Fino a quando la vela regge, una nave ben costruita può mantenere benissimo il suo equilibrio e sostenere l'assalto delle onde come un essere vivo e intelligente. Se invece la vela è strappata dalla violenza del vento, e ciò capita solo nei casi di vero e proprio uragano, comincia ad esserci pericolo imminente. La nave sbanda, piglia il mare di fianco e sotto vento, resta alla mercé delle onde. Non c'è altra risorsa allora che di mettersi a correre col vento in poppa fino a che non si riesca ad alzare una nuova vela. Ci sono navi, infine, che si mettono in panna senza vela di sorta. Esse hanno però da temere parecchio i colpi di mare. Ma ora basta con questa digressione. Il secondo non aveva l'abitudine di porre un uomo di quarto sopra coperta quando si era in panna col maltempo. E il fatto che invece ve lo avesse posto quel giorno, unito alla scomparsa delle asce e delle manopole, dimostrava chiaramente che l'equipaggio si teneva per avvisato e che non si sarebbe lasciato certo sorprendere nella maniera prospettata da Peters. Era tuttavia necessario agire, e al più presto possibile, dapoiché non restava dubbio che Peters, una volta destati dei sospetti, sarebbe stato sacrificato alla prima occasione. Occasione facile a trovarsi o comunque a procurarsi non appena sopravvenuta la calma. Augustus suggerì che Peters, con un pretesto qualunque, cercasse di rimuovere le catene ammassate sulla botola della sua cabina. Noi così avremmo magari potuto, passando per la cala, piombare all'improvviso sugli uomini dell'equipaggio. Ma poi, riflettendo, ci si convinse che la nave rullava e beccheggiava troppo forte per arrischiarci ad intraprendere un simile tentativo. Per fortuna, io ebbi infine l'idea di operare sui terrori superstiziosi e la mala coscienza del secondo. Si rammenterà che un uomo dell'equipaggio, Hartman Rogers, era morto quella stessa mattina dopo 2 giorni che soffriva di convulsioni per aver bevuto un po' d'alcol in un bicchiere d'acqua. Peters aveva manifestato il sospetto che fosse stato avvelenato dal secondo e per sospettarlo, così disse, aveva delle ragioni incontestabili che però nulla poté costringerlo a spiegarci. Tanto era egli strano di carattere. Ad ogni modo, avesse o no motivi più fondati dei nostri, noi concordammo facilmente con lui e decidemmo di agire in conseguenza. Rogers era morto verso le 11, tra violente convulsioni, e già dopo pochi minuti dalla morte il suo corpo presentava uno dei più orribili e disgustosi spettacoli che io ricordi. Il ventre gli si era gonfiato a dismisura come quello di un annegato rimasto sott'acqua per giorni e giorni. Le mani si trovavano nelle stesse condizioni e il viso infossato, raggrinzito. Era d'un biancore cretaceo su cui spiccavano 2 o 3 grosse chiazze d'un rosso vivo come quelle causate dalla risipola, una delle quali, distendendosi per traverso, ricopriva interamente un occhio alla stregua d'una benda rossa di velluto. In questo stato ripugnante avevano condotto il cadavere sopra coperta a mezzogiorno onde buttarlo fuori di bordo, allorché il secondo, datogli uno sguardo come lo vedeva per la prima volta e toccato forse dai rimorsi al pensiero del suo delitto o affranto dal terrore di così orribile vista, ordinava di cucirlo dentro alla sua amaca e di tributargli i rituali onori dei funerali in mare. Date queste disposizioni, se n'era andato di sotto come per evitare di soffrirne oltre la vista. Poi la tempesta si era scatenata in tutta la sua furia e gli uomini che, in obbedienza ai suoi ordini, si erano messi a fare i preparativi del funerale, avevano dovuto lasciarli momentaneamente in sospeso. Allora il cadavere, abbandonato a se stesso, era scivolato tra gli ombrinali di babordo e là era rimasto, che si scuoteva ed agitava ad ognuna delle furiose rollate della nave. Combinato il nostro piano, noi si passò senz'altro a metterlo in esecuzione. Peters salì sul ponte e, come si aspettava, venne subito ad incontrarsi con Allen che, appostato sopra il castello di prua, sembrava, più che ad altro, intento a fare la spia. La sorte di questo ribaldo fu silenziosamente sbrigata in un batter d'occhio. Peters, avvicinatoglisi con aria indolente come per parlargli, lo afferrò alla gola e prima che gli potesse gettare un solo grido, lo scaraventava per di sopra alla murata. Quindi ci chiamò e noi lo raggiungemmo. Per prima cosa ci si pose in cerca di armi procedendo per trovarle con 1000 precauzioni. Da poiché non vi era modo di stare un attimo sul ponte senza aggrapparsi a qualcosa e violente ondate spazzavano la nave ad ogni colpo di beccheggio. Eppure era indispensabile fare in fretta, siccome ci si aspettava di veder spuntare da un momento all'altro il secondo per mandare qualcuno alle pompe, la cui azione si andava rendendo sempre più necessaria. Avendo cercato per un po', nulla ci fu dato trovare di più adatto alla nostra impresa dei manichi delle 2 pompe che prendemmo e ci nascondemmo indosso, uno io e uno Augustus. Spogliato poi il cadavere della sua camicia, lo gettammo in mare e mentre io ridiscendevo sotto coperta con Peters, Augustus restava di sentinella sul ponte, al posto occupato dianzi da Allen, ma con le spalle rivolte al casotto della scala che portava giù nelle cabine, di modo che se qualcuno fosse salito lo avrebbe creduto l'uomo di quarto. Di sotto io mi affrettai a travestirmi da cadavere di Rogers. A tal scopo la camicia che gli avevamo tolta ci tornava di grande aiuto, siccome era d'un modello assai bizzarro, quasi una specie di blusa che il defunto portava sopra il resto degli indumenti. Si trattava, in vero, di una maglia azzurra a larghe strisce bianche per traverso. Indossata che io l'ebbi, mi feci con alcune coperte una pancia posticcia ad immagine di quella orribilmente deforme del cadavere. La stessa apparenza procurai di dare alle mie mani, calzando un paio di mezzi guanti di lana bianca che imbottimmo di stracci. Quindi Peters mi truccò il viso, sfregandomelo tutto col gesso e macchiandomelo con del sangue che per mezzo di un taglio si cavò dalla punta di un dito. Ne fu dimenticata la striscia scarlatta attraverso l'occhio, la quale riuscì del più ributtante aspetto.